America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Beh, chi di voi ha studiato al liceo classico avrà riconosciuto un'interpretazione in greco antico. E chi di voi è straordinariamente colto avrà capito dalle poche battute che si tratta del grande dramma Medea. Perché vi faccio ascoltare questo piccolo brano? Perché qualche giorno fa si è chiusa a New York una rappresentazione appunto di Medea, interpretata da un gruppo di giovani, una quarantina di persone, tutti disabili psichici. Ecco, questo esperimento ha colpito molto gli americani e fa parte di un esperimento che forse molti di voi conoscono, cioè del teatro patologico creato, inventato, diretto da Dario D'Ambrosi, che ha tra l'altro lavorato molto a New York, è stato per decenni avanti e indietro con gli Stati Uniti. Ma mi ha colpito molto la reazione anche dei giornali americani. Il New York Times, per esempio, ha dedicato un articolo a questa rappresentazione, perché in uno dei settori dove l'America è forse più avanzata, noi siamo riusciti, con una iniziativa italiana che va avanti ormai da parecchio tempo, a portare qualche cosa di innovativo, di nuovo, che ha colpito molto. Aggiungo, c'è stata anche un'attività filantropica, e dunque siccome questo teatro non è che abbia delle sovvenzioni statali, ma le produzioni vengono organizzate, poi ci deve ripagare con delle sponsorizzazioni, naturalmente con la vendita dei biglietti, tra l'altro tutto assolutamente esaurito, ma proprio qui a New York c'è stato un evento filantropico per una raccolta dei fondi. Ecco, spessissimo vi ho raccontato di cene organizzate per raccogliere fondi di beneficenza, fondi filantropici per aiutare delle iniziative culturali, delle iniziative benefiche di vario genere. In questo caso dall'Italia siamo venuti qui per cercare un po' di aiuto americano. Io ho qui con me ai microfoni America 24 proprio Dario D'Ambrosi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ecco, allora, D'Ambrosi è, come dire, il motore, l'idea dietro questa straordinaria iniziativa che, devo dire, ha avuto qui a New York un successo alquanto incredibile. Allora, prima cosa, come nasce l'idea di portare questo a New York? Perché non è un'impresa facile portare una quarantina di ragazzi che sono psicolabili qui negli Stati Uniti. Assolutamente no, perché portare 40 ragazzi disabili psichici con varie patologie, di cui anche patologie molto gravi, non è assolutamente un'impresa che puoi fare e realizzare tutti i giorni. Infatti non ci sono solo i ragazzi, ma devono essere accompagnati da psichiatri, da assistenti sociali, perciò è un'impresa assolutamente straordinaria. Ecco, quali sono alcune di queste patologie? Sono ragazzi autistici o schizofrenici, alcuni di loro addirittura prima di iniziare questo corso di teatroterapia non parlavano, e alcuni genitori si sono commossi quando hanno visto per la prima volta i propri figli parlare o addirittura piangere, cioè provare delle emozioni che a noi ci sembrano assolutamente normali e quotidiane, ma per loro sono dei percorsi che hanno raggiunto attraverso un lavoro di teatroterapia. Perciò stiamo parlando di ragazzi che hanno delle problematiche molto molto serie. Ecco, teatroterapia mi sembra la parola chiave, cioè la vostra idea è quella di dare uno strumento a questi ragazzi attraverso la recitazione perché possano cominciare ad esprimersi in modi che non conoscevano. Riassumo bene, sbaglio? No, no, è giustissimo, perché attraverso questo teatroterapia noi riusciamo a ridare a questi ragazzi le proprie emozioni, cioè cosa significa veramente il dolore, cosa significa la felicità, cosa significa il piacere, cosa significa la solitudine. Ed è molto bello perché attraverso degli esercizi che loro pensano di interpretare dei personaggi teatrali non fanno altro che riacquistare delle proprie emozioni. Ecco, scusi D'Ambro, non vorrei essere, come dire, ma è già, deve essere molto difficile per questi ragazzi fare quello che stanno facendo, ma lei glielo fa fare in greco antico? Dico, questa è una cattiveria o no? No, no, perché devo dire che nel momento che abbiamo deciso di venire a New York c'era il problema comunque dell'inglese, e io ho pensato e ho parlato con loro, ho detto: ma voi vi andrebbe comunque di studiare le vostre battute in greco antico? E allora c'è stata la massima disponibilità. Certo, sono stati accompagnati da un insegnante appunto di greco antico, però il risultato è stato eccellente. D'Ambrosi è un personaggio personaggio noto a New York da decenni, tant'è vero che la settimana scorsa questo fundraising di cui parlavo mi pare fosse anche organizzato attorno al suo 35esimo anno di presenza a New York, cosa che mi ha riportato un po' a vecchissimi tempi, quando qualche decennio fa qui c'erano anche Luca Barbareschi, Anna Galliena e c'era anche lei. E quindi com'è diversa New York dal punto di vista della recitazione allora rispetto adesso? C'è sempre spazio per giovani attori italiani? Ma devo dire sì, ha citato dei nomi che sono degli amici del teatro patologico. Devo confessare che New York è sempre un palcoscenico straordinario per ogni persona che voglia affrontare il mondo del teatro. Ecco, palcoscenico straordinario lo è anche il Mama Theater, teatro storico. Perché? Sì, è un teatro molto molto importante, perché lì ci hanno debuttato i più grandi attori, da Robert De Niro a Al Pacino, che è venuto l'ultima domenica a vedere la nostra rappresentazione, a Mary Streep. Diciamo, i più grandi attori sono passati un po' tutti dal teatro di Ellen Stewart, dalla Mama qua di New York. Medea, perché Medea per questi ragazzi che hanno difficoltà psichiche? Perché in qualche maniera quando tu affronti il dramma poi cerchi quasi di esorcizzarlo, e devo dire che con il lavoro della Medea i ragazzi hanno vissuto il dolore di un'altra persona, che è questa Medea, questa donna che viene tradita e uccide i propri figli, ma nello stesso momento i ragazzi sono riusciti ad esprimere le loro violenze, la loro passione, la loro, diciamo, solitudine, e riprendersi in qualche modo la libertà espressiva che solamente il teatro può dare. Però è bello perché Medea l'hanno decisa loro, volevano loro affrontare questa tragedia greca di Euripide. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me Dario D'Ambrosi. Dario, che canzone vogliamo proporre oggi al nostro pubblico? Ma visto che abbiamo parlato un po' del passato, ricordando degli amici, perché non ricordiamo Leonard Cohen con Suzanne, che è un pezzo di quegli anni che assolutamente tutti ricorderanno con grande passione. Leonard Cohen che tra l'altro è passato anche lui dal Mama Theater, se sì, sì, come Lou Reed, Patti Smith e molti altri. Leonard Cohen, Suzanne. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!